Sei davvero, ti ho imbrogliato. Sei davvero, ti ho ferito. Torna su da me. Sei dal prato, ti ho reciso. E del gambo tuo ne ho fatto solitudine. Sei davvero, ti ho colpito. Senza mai mirare a caso. Torna su da me. E il tuo cuore ha peso un filo. Perché desse gioia e peso all'immagine. E dagli occhi acceso un fuoco. Tra le braccia che ho spezzato. Nei tuoi segni ho masticato con avidità. E dai fianchi ho preso il volo. Dal deserto mio infinito. Come un falco su nel tuo cielo di rondine. Se davvero ti ho scolpito. Nella mente mia di sale. Tutto il pianto che è piovuto. Torna su da me. E se già non hai più sangue. E sono stanche le tue vene. Torna su da me. Se davvero ti ho mentito. Quando ho detto che ti amo. Torna su da me. Se il tuo amore adesso è un grido. E del silenzio disperato. Sono complice. Sarò le tue mani e ho commesso il tuo peccato. Torna su da me. Se alla vita ti ho strappato e dal buio ti ho difeso come un fulmine. E dagli occhi acceso un fuoco. Tra le braccia che ho spezzato. Nei tuoi segni ho masticato con avidità. E dai fianchi ho preso il volo. Deserto mio infinito, come un falco su nel tuo cielo di rondine. Se in un sorso ti ho bevuto, senza mai rendere il vuoto. Se fuggendo ti ho graffiato, torna su da me. E se in te non c'è respiro, non è vero che si muore. Torna su da me. Sangue e sono stanche le tue vene. Torna su da me.